Eccoci, eccoci qua alla fuga del gatto, domenica 11-12, che giorno è? 12 gennaio 2020, ovviamente. Se ci state ascoltando in diretta su Radio Wombat, ovviamente lo state facendo, penso, in streaming, cioè andando su wombat.noblogs.org e guardando, cioè cliccando sul pulsantone a sinistra, in alto a sinistra, dove insomma potete guardare tutti i vari modi con cui potete ascoltarci in streaming, oggi MP3 e basta, questo è. E o se no ci state ascoltando probabilmente in onde medie, sulle onde mediocri, sulla frequenza 1359, che ricordo essere ovviamente la nostra frequenza meravigliosa, wombattosa. E se lo state facendo, magari, che ne so, mandateci una mail alla casella di posta wombat@insiberia.net, perché così magari noi insomma abbiamo un po' dei feedback, come si dice, no? Così non ci sentiamo di parlare da soli ai microfoni, ma insomma ci rendiamo conto meglio di chi ci ascolta, se ci ascolta qualcuno, c'è qualcuno che ci ascolta, no? Sarebbe bello, non lo so, magari ci dite anche cosa ne pensate. Ma vabbè, fuga del gatto, oggi sono qui da sola senza la mia compara Virgi, sono da sola e vi parlo di un personaggio che non è né un compositore né un esecutore, né, beh, insomma, non, è un po' strano perché riguardo, insomma, le nostre puntate della Fuga del Gatto in genere vanno a indagare o dei temi, sì, certo, che riguardano la musica classica o degli strumenti musicali, oppure insomma parlano un po' più approfonditamente di un'opera o di una composizione, oppure di un singolo compositore o compositrice. E invece questa volta ci concentriamo su un costruttore di strumenti, probabilmente uno dei più noti costruttori di strumenti di tutti i tempi, in particolare il liutaio sicuramente più conosciuto al mondo, Antonio Stradivari. Antonio Stradivari nacque a Cremona, forse, chissà, intorno al 1644. L'anno di nascita è stato desunto da pare dall'etichetta di alcuni suoi strumenti, dove accanto al sigillo e all'anno di costruzione Stradivari pare avesse annotato anche la sua età. Dico pare perché ovviamente chi l'ha mai visto uno Stradivari, anche se poi dopo vedremo in chiusura di scaletta, non è così difficile poi in fondo vedere un esemplare di violino o di qualche altro strumento costruito da Antonio Stradivari o dai figli, insomma. Ecco, dei modi ci sono, sicuramente non per farlo, però in maniera ravvicinata, sicuramente è ben più difficile, ecco, guardare i dettagli, tantomeno le etichette e quanto, ma noi ci fidiamo. E dicevamo, appunto, nasce a Cremona nel 1644, Cremona a tutt'oggi è anche patria della costruzione dei violini, insomma, non a caso degli strumenti ad arco. E invece il fatto che sia nato a Cremona è desunto dal fatto che nelle etichette degli strumenti sempre si definiva cremonensis, quindi insomma diciamo che c'è qualche margine di certezza. Da bambino lavorò come apprendista per l'architetto Francesco Pescaroli, Pescaroli, boh, chissà dove va l'accento, e pare fu allievo di Nicola Amati, grandissimo costruttore di violini anche lui, o di strumenti ad arco. Si presume sia stato apprendista nella bottega, quindi, di Nicola Amati, non per dei precisi riscontri storiografici, che come vi diciamo spesso in questa trasmissione, tutto ciò che risale a prima dell'Ottocento in musica, bah, è stato un po' buttato sotto il tappeto, quindi è difficile trovare cose. Non tanto per appunto questi per riscontri storiografici molto precisi, ma per la similitudine dei suoi primi strumenti con quelli dell'Amati stesso. Quindi insomma si desume un po' che fosse a scuola diretta dall'Amati. Dai registri della parrocchia di Sant'Agata, invece, si sa che Stradivari si stabilì in quel quartiere di Cremona nel 1667, anno in cui sposò la sua prima moglie Francesca Ferraboschi. In questa casa che gli era stata data dall'architetto Pescaroli, appunto, da cui era apprendista, come dicevamo all'inizio, nacquero i primi sei figli della coppia. No, scusate, vorrei sottolineare sei, tra i quali Francesco e Omobono, che più tardi saranno anch'essi liutai e aiuteranno Antonio Stradivari nel suo lavoro. Il matrimonio con Francesca Ferraboschi fu combinato, come spesso succedeva all'epoca, e perché lei era rimasta vedova e, tra l'altro, se non sbaglio, aveva anche un figlio al tempo. In attesa di un figlio, cioè proprio malissimo, quindi doveva assolutamente ricorrere a un matrimonio riparatore. La condizione di vedova, insomma, al tempo era una condizione ben poco invidiabile, bruttina assai. In particolare, lei, oltre ad essere vedova, era anche incinta, dramma. Quindi viene combinato un matrimonio con Antonio Stradivari. Pare che poi in realtà la cosa, chissà chi può saperlo, ma insomma, comunque fecero sei figli, quindi malissimissimissimo probabilmente non andò. Anche se, insomma, ciò non vuol dire molto. Ci furono, soprattutto all'inizio, un bel po' di difficoltà economiche, però in quel momento, proprio in questo periodo, Stradivari inizia la sua attività di liutaio e intorno al 1680, qualche anno dopo, quindi, apre la sua bottega insieme ai figli Omobono e Francesco, e dopo chiaramente, e i suoi vari allievi. Apre questa bottega in piazza San Domenico, che adesso non si chiama più così, ma non fu nel 1684. Stradivari divenne il liutaio più importante a Cremona, insomma, prese un po' il testimone, evidentemente, anche rispetto alla fama e anche a quanto era conosciuto. Dopo il primo periodo della sua produzione, che viene chiamato adesso amatizzato, insomma, dai posteri, agli inizi del Settecento realizzò alcuni tra i suoi strumenti più famosi, come l'Elie, il Toscano e la viola medicea. Almeno tra quelli che ci sono rimasti, ecco, diciamo, i più famosi. E dopo la morte di Francesca Ferraboschi, la sua prima moglie, nel 1698 si sposò con Antonia Zambelli, dalla quale ebbe altri cinque figli. Mi sembra una cosa veramente allucinante, ma comunque, insomma, siamo a quota 11. Comunque, che si deve fare? Ognuno ha le sue, come dire, abitudini. Direi di ascoltare subito qualcosa. Ovviamente non vi faccio ascoltare niente di Stradivari, perché Stradivari non componeva, non suonava, anche se sicuramente, insomma, in qualche maniera sapeva suonare il violino, immagino, ma non ci ha aggiunto niente sicuramente, sicuramente non componeva, o almeno non c'è dato di saperlo. Però durante la puntata di oggi chiaramente vi farò ascoltare un bel po' di musica per violino, quasi tutta per violino solo, in modo da poter apprezzare tranquillamente anche, insomma, certe sonorità del violino, di questo bellissimo strumento. Era un po' troppo difficoltoso andare a ricercare esecuzioni soltanto con Stradivari, anche perché devo dire quelle che ho trovato sono tutte registrate live con una qualità un po' bruttina, e in ogni caso magari il brano che andavano a eseguire non era particolarmente interessante da ascoltare, quindi sinceramente ho deciso di glissare completamente, e quindi vi farò ascoltare in questa puntata violini che non sono Stradivari, ma chi se ne frega. Partiamo da Johann Sebastian Bach, partita per violino solo numero 1 in si minore, numero di catalogo BWV 10002, e ci ascoltiamo però solo il primo movimento, ovvero l'Allemanda, e la violinista in questo caso è Amandine Bayer. ¶¶ All'inizio pare, almeno c'è chi sostiene, che Stradivari avesse modificato i modelli di Amati, del maestro, quindi, come vedremo poi nel corso di questa puntata, chiaramente, essendoci poche informazioni biografiche e trattandosi appunto di secoli dove poi dopo, insomma, di cui non c'è arrivato moltissimo, chiaramente ognuno poi fa un po' le sue, come dire, dalle sue interpretazioni. Ci sono moltissime scuole di pensiero, c'è chi dice, afferma con grande certezza una teoria e chi ne afferma un'altra, insomma soprattutto quando si parla di un costruttore e un personaggio così famoso e così importante come Stradivari, fioccano le teorie e le storie. Quindi io ve le butto lì, dategli il peso così, un po' di favola spesso. Dicevamo che pare avesse modificato i modelli appunto del maestro intervenendo sulle bombature, la forma, le F e gli spessori. E pare che fu proprio lui a compiere i primi studi sulla modifica dell'inclinazione del manico, modifica fondamentale, molto molto importante per poi arrivare al violino come lo conosciamo adesso. Fino ad allora il manico era semplicemente appoggiato alle fasce e fissato con tre chiodi, quello che veniva chiamato il metodo barocco, ma di fatto faceva sì questa cosa che gli strumenti costruiti in questo modo avevano una potenza abbastanza scarsa e quindi potevano essere apprezzati, ascoltati solo in piccoli ambienti. Quando a un certo punto la musica ha iniziato a essere eseguita nei teatri, e avevamo il problema chiaramente di dover far sentire questi strumenti in un ambiente molto più vasto, quindi fu deciso di dare maggior tensione alle corde riuscire in questa maniera a dare più potenza al suono. Per fare questo viene in qualche modo scoperto che si poteva inclinare, cioè scoperto, era necessario per tendere di più le corde, ma insomma si deve poter inclinare maggiormente il manico all'indietro, e quindi viene eseguito questo incastro, quello che viene chiamato l'incastro, ovvero incastrare e incollare all'interno dello zocchetto una parte del manico in modo che potesse resistere alla tensione creata, perché altrimenti chiaramente il manico si stroncava all'indietro. Poi fu necessario allungare la catena e anche la tastiera del manico in modo da poter accedere alle posizioni più alte, fu la tastiera sostituita con un legno più resistente, l'ebano. Con tutti questi accorgimenti si diede vita e tanti altri in realtà a quello che adesso chiamiamo il violino. Nel 1684, come dicevamo, come abbiamo detto prima, muore Nicola Amati e quindi il liutaio più importante e più carismatico a Cremona. E il figlio Girolamo, che praticamente aveva in realtà anche lui dato un importante contributo alla costruzione degli strumenti del padre, non riuscì però a mantenere l'elevatissima qualità della bottega, e quindi da quel momento in poi perse un po' sia la fiducia sia la fama della bottega, e le commesse più importanti vennero passate a Stradivari. E nonostante negli stessi anni si stesse sviluppando l'attività di un altro famosissimo liutaio, ovvero Andrea Guarnieri, e successivamente poi anche del figlio Giuseppe Guarnieri, a sua volta padre del famosissimo Bartolomeo Giuseppe Antonio, detto del Gesù Guarnieri, quindi insomma stirpe notissima e famosissima di liutai, nonostante ciò insomma Stradivari ottenne le commesse più importanti. Nacquero così i grandi Stradivari, perché ovviamente con i soldi lui poteva lavorare e probabilmente insomma riuscire anche a fare degli strumenti migliori, ovviamente, e quindi nacquero quelli che poi adesso sono diventati, adesso insomma negli ultimi secoli sono passati alla storia come i grandi Stradivari, come il Betz del 1704, l'Ernst e il Greffel del 1709, il Parke del 1711, il Boissier, il Sancy del 1713, il Cremonese ex Joachim del 1715, il Messia del 1716 e il Canto del Cigno del 1737. Ovviamente ciascuno di questi violini, ciascuna delle creazioni, chiamiamole così, di Stradivari avevano un nome proprio, perché erano creature, erano come fossero quasi esseri viventi, ecco. All'interno di, dei suoi strumenti c'era un'etichetta scritta in latino che Stradivari poneva sullo strumento e che recitava Antonius Stradivarius Cremonensis faciebat anno, con l'anno in cui era stato fatto, e quindi fondamentalmente da lì poi si desume. Sempre questa etichetta sia originaria e vera, si desume che quello strumento è stato costruito appunto da Antonio Stradivari. Pare, insomma, c'è chi dice che le sue migliori opere furono costruite tra il 1698 ed il 1725 e che raggiunse l'apice tra il 1725 e il 1730. Dopo, molti strumenti portano la scritta nell'etichetta Subdisciplina Stradivari, il che vuol dire che probabilmente vennero costruiti dai suoi figli, che comunque, poracci, insomma, non è che proprio facevano schifo. Al periodo che ruota intorno al primo decennio del 1700 appartengono in realtà anche alcuni ottimi violoncelli, perché lo vedremo, Stradivari non costruiva soltanto violini, ovviamente. Stradivari abbandonò la misura grande che aveva caratterizzato i violoncelli del passato che costruiva lui stesso, e successivamente tutti vennero ridotti per poterli adattare alle esigenze del repertorio solistico, e pervenne tra il 1707 e il 1710 a elaborare quella che viene chiamata la cosiddetta forma B, che venne usata poi come modello dalla maggior parte dei costruttori per tutto il XVIII secolo. Il suono di questi violoncelli è del tutto paragonabile a qualità, potenza, insomma, è meraviglia a quello dei violini, quindi in realtà, insomma, possedere un violoncello Stradivari è paragonabile a possederne un violino, ecco. Oltre a violini e violoncelli, Stradivari creò anche arpe, che però ad oggi si sa che ne esista una sola, cioè ne è arrivata a noi una sola, pare, pensate quanto possono averla pagata. Chitarre, viole, bassetti, liuti, tiorbe, viole da gamba di varie taglie, di vari tipi, mandole e mandolini. Viene stimato che Stradivari abbia costruito 1116 strumenti, di cui 960 violini, secondo la loro stima, secondo la stima appunto fatta da, diciamo, esperti di Stradivari, circa 650 strumenti sono sopravvissuti ad oggi, tra i quali circa 450 violini. Questo almeno è quello che siamo riusciti a tramandarci, chissà se è vero, insomma. Farei sentire un altro brano, che questa volta è di Telemann, Georg Philipp Telemann, bellissimo secondo me questo brano, tratto da 12 fantasie per violino solo. La fantasia prima in si bemolle, TWV 4014, il primo movimento in particolare, ci ascoltiamo largo come andamento, il violinista in questo caso invece è Kolya Lessing. Thank you. come dicevo prima, ci sono state un sacco di teorie, speculazioni, per cercare di capire cosa rendesse i violini e gli strumenti di Stradivari così eccezionali. Quindi via le formule, speculazioni, c'erano chi diceva che c'erano delle caratteristiche segrete, tipo per esempio la densità del legno, il trattamento chimico del legno, formule segrete della vernice, insomma chiunque ha speculato negli anni, e ci sono state, lo vedremo, ricerche, fior di ricerche ben pagate per cercare di capire cosa rendesse questi strumenti così incredibili. In realtà poi, cioè, fondamentalmente no, tutto ciò non ha molta base, non ha molto trovato molto riscontro. Sicuramente la produzione di Stradivari è caratterizzata da un'ottima qualità delle materie prime e nella costruzione, cioè una capacità e un'attenzione, una cura a livello artigianale che insomma non trovava pari e non ha trovato pari nel tempo. Quindi sicuramente c'era qualcosa di meravigliosamente alto, ecco, nelle sue costruzioni, ma nelle analisi acustiche e negli esperimenti in cieco che sono stati fatti negli anni recenti, insomma quando poi avevamo a disposizione gli strumenti per poterlo fare, i suoi strumenti poi di fatto non sono distinguibili da altri strumenti diciamo eccellenti di costruzione sia antica che moderna. Quindi in realtà a tutt'oggi non si è veramente capito, almeno io non ho sta grande esperienza in fatto di violini, ma insomma quello che mi è parso di capire è che ci sono un sacco di chiacchiere sul tema e ben poco di dimostrato. Un gruppo di ricercatori, per esempio, inizio a buttarvele un po' lì, un gruppo di ricercatori dell'Università di Cambridge, dopo aver analizzato i frammenti di un violoncello realizzato da Stradivari nel 1711, è giunto ad esempio alla conclusione che l'elemento determinante era la vernice che conteneva delle ceneri vulcaniche della regione cremonese, per esempio. Oppure, ancora sempre riguardo alla vernice, secondo un'equipe di scienziati della Texas A&M University, diretti da Joseph Negvery, che ve lo dica fa, le vernici usate erano arricchite con cristalli minerali submicroscopici. Ne sono stati individuati 22, ma ve ne sarebbero ancora altri. Queste scoperte fondamentalmente portavano a dire che Stradivari, per rafforzare la struttura del legno, usava una preparazione vitrea, un composto di potassa, silice e carbone. Questa è una teoria a tutt'oggi molto, molto in voga e molto usata. Dopo una lunga esposizione a questo composto di cui dicevamo, il legno diveniva quasi cristallizzato e questo gli conferiva un'eccellente resistenza al tempo. A questo punto la vernice non poteva essere applicata direttamente perché avrebbe reagito chimicamente col primo strato. Così Stradivari applicava un secondo strato, un isolante composto da albume, miele, zucchero e gomma arabica. Infine stendeva un sottile strato di vernice che non entrava in profondità nel legno del violino. E secondo questi studi il trattamento del legno serviva anche alla sua conservazione contro parassiti e muffa. Ma d'altra parte un altro studio sostiene che proprio l'aggressione della muffa darebbe speciali qualità sonore al legno di Stradivari, tanto che è stato fatto un esperimento in cieco in cui si è messo a paragone un violino Stradivari e uno moderno costruito con del legno trattato con la muffa, e quest'ultimo strumento invece ha vinto contro l'altro. È un po' di tutto un po', la scienza ci dà sempre grandi soddisfazioni e grandi certezze. Secondo un altro laboratorio di ricerche, che ha invece fatto una radiografia al legno dei violini di Stradivari, almeno di qualche violino di Stradivari, la presenza di muffa o fungo microscopico dovrebbe spiegare la capacità eccezionale di suonare proprio per la porosità del legno. Vabbè. C'è da dire che su questo, insomma, è sicuro, cioè una delle poche certezze, Antonio Stradivari era un esperto nel riconoscere i migliori legni dal punto di vista dell'acustica, caratteristica, insomma, che è una delle cose fondamentali che deve un buon liutaio deve sapere. Andava personalmente in Val di Fiemme, una delle migliori al mondo, famosa ancora oggi per la qualità del legno, nonostante, ahimè, ci ricordiamo tutti il terribile incendio di qualche anno fa, per scegliere gli alberi più adatti. C'è chi si spinge a dire che facesse pure dei test facendo rotolare i tronchi per ascoltare il suono, insomma, poi da lì in poi si va avanti, ecco, diciamo, nelle teorie. Però sicuramente Stradivari andava a scegliersi il legno, gli alberi, personalmente. C'è anche un'altra teoria interessante che, per spiegare tutto ciò, che è una teoria che spiega l'alto pregio di questa produzione, ovvero che l'Europa continentale in quel momento stava vivendo un periodo chiamato Minimo di Maunder o Piccola Era Glaciale. Era un periodo caratterizzato da un sensibile abbassamento della temperatura media e da un aumento delle precipitazioni. Secondo questa teoria, le particolari condizioni climatiche portate da questa piccola glaciazione avrebbero causato una diminuzione dell'attività fotosintetica delle piante e quindi avrebbero ridotto la velocità di crescita, dando origine a un legno più compatto e elastico. Grazie a questo, secondo questa teoria, Stradivari avrebbe avuto la possibilità di usare dei legni privi di imperfezioni, mentre oggi, con il clima irregolare, e lo sappiamo bene, non possiamo più avere a disposizione legni così perfetti. Quindi, col cambiamento climatico, Greta ci dice addio violini perfetti, addio bellissimi violini. È così, dobbiamo adattarci alla mediocrità e alla tristezza. Ora vi faccio ascoltare non un brano musicale, ma un intervento di un esperto che sicuramente molto meglio di me vi racconterà un po' di tutte queste teorie e vi chiarirà appunto il suo pensiero su queste interessanti e importanti teorie, in particolare sulla vernice che Stradivari avrebbe usato. Chi parla a questo esperto è Fabio Chiari, un famosissimo liutaio di Sesto Fiorentino che non per niente ha lo studio in via Cafiero e insomma vi darà in 6 minuti molte risposte. Quale vernice tu avevi detto? Questa? Questa è di Sesto Rocchi. Ah, questa lì. Vabbè, fammi vedere. Se stai sulla vernice vuol diventare tutti scemi. La vernice. Questa qui tu dici? Spiriti 1800. Enzoino, sangue di drago, gomma gutta. Fra le tante c'è il procedimento. No, perché sa, mettere un elenco di cose ora non serve a nulla. Ma mi sento, a me questa mi fa una pelice un po'. Sì, l'ho fatta anni fa. Non è brutta, però è un pochino. Io ne farei una. Io intanto mi romperei meno coglioni con le vernici, perché quando uno gli ha fatto una vernice di buona qualità, che si stende bene, che rende bene, che è abbastanza trasparente, con questi discorsi. Vabbè. C'è anche quella di. Questa non è brutta, quella di Primo Contavalli non è brutta. È un po' più complessa da fare. Ma io sta sulle vernici andando uno, sì, per carità, provare, però io ho provato per 15 anni, ho buttato via più soldi con le vernici, però guarda, se te tu pigli questo catalogo lì, guarda, perché voi buffate, guarda, voi te buffate, come la sindone, guardate e non vedete, capito? Va lì, la gente guarda e non si accorge, la gente non si accorge che è un falso, perché la non guarda, cioè la guarda ma non vede. Allora guarda, io tempo fa, quando l'altro giorno ho sentito a fare. Allora, questo la collezione granducale, quindi qui si parla di Stradivari, Amati, cioè no Pimpirinella, no Borraccina, come diceva, ecco. Allora, prendiamo questo, il contrabbasso, Bartolomeo Cristofori. Allora, dunque, documentazione storica, perché bisogna, perché ti dico bisogna studiare, bisogna sapere? Perché se te le cose non le sai, dopo tattuva dietro ai che ti diano questi che credono aver scoperto chissà che una vernice di Stradivari. Allora, sta a sentire. Allora, 1791 Giuseppe Carcassi scrive: rifatto la tastiera, medesimo di Granatiglia, inchiodato ponticello nuovo, avere rifatto l'arco con le setole e avere dato due o tre mani di vernice. Ti dice nulla di questo discorso? Non lo so, io due o tre mani di vernice, ma prendo un altro, non è mica tanto difficile, guarda. Fortuna che ti ha documentato la storia, qui siamo anche a livello di sempre. Allora, per avere fatto la tastiera, per avere i filoni nuovi, per avere rimesso i tasti, allora, non ricordo, esteso due o tre mani di vernice, rinnovato la vernice, guarda, allora, 1819, poi 1825, il liutaio Bimbi, contrabbana, l'allarme, allora, ritirate le buche della tastiera di ebano e ridata la vernice, lire 10. Bene, andiamo avanti. Documentazione storica, questi piattellini, zoccolo, corde nuove, date due mani di vernice, lire 1,15, 1833. Ora, allora, a me tu mi devi dire come si fa a dire la vernice di Stradivari, cioè te me lo devi dire, dimmi come si fa a dire che esiste la vernice di Stradivari, se nel 1855 e 1873 agli strumenti di 1700 gli avevano dato 30 o 40 mani di vernice sopra, perché gli strumenti quando vengono curati tutti gli anni vengono rinnovati, ogni 3, 4, 5 anni vengono riaccomodati, li si rompono, se tutti gli hanno dato 2 o 3 mani di vernice sopra, mi dici come cazzo fai te a riconoscere la vernice di Stradivari, dimmi come tu fai, perché qui la gente la si riempie la bocca, perché gli hanno messo la bocca qui e allora la adoperano, capito? Per farsi grani fanno i libri, la vernice di Stradivari, poi tu vai su internet, no, capito, la vernice di Stradivari, ma dove cazzo è la vernice di Stradivari? Se c'è, guarda, se c'è la vernice originale ancora sotto, nella viola medicea di Stradivari di costo dell'Accademia di Firenze, è l'unico posto dove ci può essere. Eccolo qui, questo è l'unico strumento dove ci può essere la vernice, ma sotto, perché nella radiografia, se tu vai a vedere, c'è due tardi sul fondo, un tardo che ha camminato per 20 cm sul piano, quindi quando l'hanno restaurato e le mani di vernice sopra, anche se più non figurasse, gliel'hanno ridate, perché in 300 anni di vita gli strumenti si consumano, si rompono, si aprono, si riaccomodano, si modificano, si sciupano, pigliano l'umido, pigliano il caldo, sicché quando io sento dire io ma la vernice, cioè addirittura c'è della gente che crede di aver scoperto la vernice di Stradivari, ma dove? Ma se gli è rimasto un po' di vernice in uno sguscio o nel coso della chiocciola le grassa e le è coperta dopo 20 anni di strati e strati, 20-30 strati di vernice, che non mi rompete coglioni, per favore, anche te e quell'altro di coso con la vernice di Stradivari, guarda, la vernice di Stradivari, andate a cagare. Non capire nulla, non guardate e non vedete, non leggete e non capite un cazzo. Stia mai là. E quello si dice, ma così mai là, ma leggi. Leggi le vernici come le sono, cioè, le sono tutte uguali, gira e rigira. Cioè no, ma se si cambia la concentrazione, se si mette la temperatura, la deve essere. Le resine sono quelle lì. Io non credo che nel 1500, 1600, 1700 gli essero tutti questi accorgimenti. Magari sai che, magari gli stanno attenti a come era la Luna, e questo sì è probabile, ho una congiunzione di Venere e di Marte, dove cazzo ho messo tutto il resto. Mamma mia ragazzi, voi dovete studiare perché non capite un cazzo, capito? Non avete capito ancora nulla. Oh, ecco. Ecco, e con questo chiudiamo l'argomento e non se ne parli più. Antonio Stradivari morì il 18 dicembre 1737, anche qui forse sì, a pochi mesi di distanza dalla sua seconda moglie. E aveva 93 anni, che insomma al tempo non era proprio un'età così, insomma, non era proprio nella media. E entrambi furono sepolti nella Basilica di San Domenico, ovviamente a Cremona, che sorgeva nell'area degli attuali giardini pubblici di Piazza Roma. Ah, ecco dove avevo letto Piazza Roma, non c'entrava niente. E dove è posta una lastra tombale a ricordo. I figli Francesco e Omobono, l'avevamo detto anche all'inizio della trasmissione, continuarono a lavorare nella bottega con Carlo Bergonzi. Altri suoi allievi, tra i più significativi, furono Domenico Montagnana, e Alessandro Gagliano e Lorenzo Guadagnini. Su circa, un po' prima l'abbiamo detto, su circa 1100 strumenti costruiti da Stradivari, 650 vengono adesso attualmente riconosciuti come sue opere e sono considerati i migliori strumenti ad arco mai creati. Quelli perfettamente integri, 50 circa, sono stimati a prezzi stratosferici e suonati dai migliori esecutori del mondo, fortunatissimi direi. Solo Giuseppe Guarnieri del Gesù ha la stessa reputazione fra musicisti e collezionisti. Il prezzo più alto pagato per uno Stradivari è stato, almeno ad oggi, di 1.790.000 sterline, ovvero oltre 3,4 milioni di euro, per il The Hammer al Christie's di Londra, nel 2006 questo. La più grande collezione di strumenti di Stradivari, che comprende due violini, due violoncelli e una viola, appartiene al re di Spagna ed è in mostra nel Museo degli Strumenti Musicali del Palazzo Reale di Madrid. Invece nella Library of Congress degli Stati Uniti si trova una collezione di tre violini, una viola e un violoncello. Ma figurati se ci avevano anche loro la loro collezione. Direi di un altro po' di musica, di farvi ascoltare un altro po' di musica. Solo due brani ci restano e il primo di questi due è di Pietro Antonio Locatelli, anche questo veramente bellissimo secondo me, è dall'opera 3, il capriccio numero 2, raccolta a sua volta dentro l'arte del violino, ovvero 12 concerti che furono scritti per violino solo, archi e basso continuo e pubblicati nel 1733 come terza opera di Locatelli. Il violinista in questo caso è Giuliano Carmignola. Thank you. Ci rimane da dire, da parlare dei periodi di produzione, perché cambiarono lo stile nella costruzione appunto di Stradivari. Il primo periodo, lo dicevamo un po' all'inizio, va dal 1666, che bella data, al 1680, e lo stile è, come dicevamo, molto simile a quello di Niccolò Amati. Gli strumenti riportano l'etichetta Antonio Stradivarius Cremonensis Alumnum Niccolò Amati, e qui insomma, quindi evidentemente molto esplicito, ma c'è anche una certa somiglianza con il lavoro di Ruggeri, un altro liutista. Il secondo periodo va dal 1680 al 1690, meglio definito come il periodo amatizzato, perché ha le caratteristiche tipiche di tutta la famiglia Amati. I modelli in questi anni sono più rotondi, i violini sono più ampi rispetto al periodo precedente, e compaiono i primi violoncelli in forma grande, chiamata la forma A, lunghi 79, come il Medicio Duport. Dopo la morte del maestro, Stradivari cambiò, di Amati quindi chiaramente, Stradivari cambiò le linee e le bombature, come si diceva all'inizio, cambiò anche la vernice, e che prese delle tonalità più scure e rossicce a partire dal 1685. Il terzo periodo, che va dal 1690 al 1700, è caratterizzato dagli strumenti lunghi che arrivano a misurare fino a 36 cm di lunghezza di cassa. Le C sono meno curve e più lunghe, e le punte diventano uncinate, il filetto più largo 363, e il nero aumenta di spessore. Le F sono più larghe e più ravvicinate, la bombatura è più piena e utilizza una vernice, ritonfiamo sulla vernice, più fragile, che si scheggiava facilmente. Questo ci sta che si sapesse, perché magari se l'era annotato. Il suono dei suoi strumenti cambiò, diventando scuro, e al contrario dello stile Amati. In questi anni progettò la forma di viola definitiva, che costruì poi per molti anni. Il quarto periodo è chiamato invece il periodo d'oro. Di questo periodo sono gli strumenti più costosi e ricercati, tra tutti il Cremonese del 1715, il violoncello Servè, il Messia, il Tiziano e il Soil. Dal 1700 iniziò a lavorare nella sua bottega il figlio Francesco, e in questa fase di produzione vennero usati legni veramente unici e splendidi. L'intervento del figlio Francesco è in realtà piuttosto evidente, e fa un occhio più largo, la vernice diventa ancora più rossa e i legni sono preparati con il silicato. Il bianco del filetto diventa ancora più grande nei violoncelli, e pare appunto che il suono di questi strumenti sia eccezionale. Nel quinto periodo, che va dal 1720 al 1736, fondamentalmente rimane Francesco, quasi esclusivamente Francesco, a lavorare sugli strumenti, e pare ci fu un netto peggioramento nella produzione. Poraccio sto Francesco, non gli riusciva bene. Oltre che a Cremona, al Museo del Violino, alcune creazioni di Stradivari possiamo vederle anche a Firenze. Per esempio, e questo ce lo ricordava anche il nostro amico di prima, ad esempio la collezione Cherubini alla Galleria dell'Accademia di Firenze espone tre strumenti di Stradivari. Se non ci siete mai andati, vi consiglio assolutamente di andare a vedere il Museo degli Strumenti Musicali, curato appunto dal Conservatorio Cherubini di Firenze, alla Galleria dell'Accademia. Oltre al violino del 1716, la viola medicea e il violoncello, la viola medicea e il violoncello del quintetto, che furono costruiti da Stradivari nel 1690 per il Gran Principe Ferdinando de' Medici. Con questo direi che ci salutiamo. Penso di aver esaurito gran parte delle vostre curiosità su morbose, su Stradivari, su Antonio Stradivari, e ovviamente non potevamo non concludere con Paganini, Niccolò Paganini, che in realtà il suo violino più famoso, più usato, non era uno Stradivari, ma era un Guarnieri del Gesù, quello che lui chiamava il cannone, ma aveva anche uno Stradivari che si è comprato a un certo punto e che insomma a cui teneva molto. ci ascoltiamo, siccome Paganini, come sappiamo, era un tamarro e un così un, veramente un coatto, ci ascoltiamo un Nel cor più non mi sento, che vabbè, lo sentirete, è un po' una tamarrata, e che è un brano per solo violino, che è una variazione sul tema tratta dall'opera La Molinara di Paisiello, composta nel 1788. Un po' una, come dire, un new melodico del tempo. Il violinista in questo caso è Salvatore Accardo. Con questo vi saluto e vi do appuntamento a domenica prossima, sempre intorno alle 18:30. Se no, potete riascoltare le repliche della Fuga del Gatto sparse nel palinsesto di Radio Wombat. Le potete trovare sul sito wombat.noblogs.org alla voce palinsesto. Vi do appuntamento a domenica, fate una buona serata, quel che vi pare, ciao ciao! Thank you.